Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30. Ma andiamo con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21:30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Ora andiamo all'ascolto di una band statunitense, è una band che purtroppo non esiste più, è una band che è esistita, si era formata alla fine del secolo scorso, proprio alla fine degli anni 90, è esistita per pochi anni. Loro erano dell'Oregon, da Portland, era una band al femminile, le Arum Scarum, e noi ci ascoltiamo dei brani dal loro ultimo album che era uscito nel 2004 e che si intitola The Last Light. Arum Scarum. Sì, bentornate, bentornati a Zernis Magnetics. Oggi partiamo da Marilou Maschietto. Allora, durante la mia trasferta napoletana di qualche tempo fa, in una bella distro di compagne, ho trovato questo libricino, più che un opuscolo, proprio un libricino che si intitola Pentiti Mai, appunto a cura di Marilou Maschietto, e che faceva parte, questa compagna, anche del comitato contro carcere e repressione Giuseppe o Giovanni, non mi ricordo il nome di battesimo, Faina. Allora, così, cercando di preparare un po' la trasmissione, volevo un po' collegarmi col discorso che avevamo fatto un po' lo scorso giovedì sulla detenzione femminile, e mi sono messa così a rileggere questo libricino. Poi in realtà mi sono ricordata che c'è un ricordo di questa compagna, Marilou Maschietto, che è morta praticamente nel 2020, alla fine del 2020, il 29 dicembre 2020, e mi sono ricordata che c'erano dei ricordi, degli scritti in ricordo di questa compagna, di Anna Beniamino, Alfredo Cospito e Marco Bisesti. E allora sono andata a cercare le parole di questi compagni che ricordavano Marilou, e così, insomma, è un po' emersa la sua storia. Lei è stata, nel 2016, quando aveva 84 anni, è stata anche inquisita per l'operazione Scriptamanent. Allora, tra le altre cose, poi faceva parte, ha collaborato comunque, insomma, ha fatto parte di Azione Rivoluzionaria, e questo movimento lotarmatista anarco-comunista che ha agito un po' in tutta Italia negli anni 80-90. Poi magari dirò qualcosa anche su questa organizzazione, se così possiamo chiamarla. Faina era Gianfranco Faina, che era un intellettuale, faceva parte anche di LUD, e nonché di appunto Azione Rivoluzionaria. Tra l'altro, su questo movimento di Azione Rivoluzionaria anche le edizioni Anarchismo hanno fatto un libro dove praticamente loro hanno ripubblicato tutti i documenti più significativi scritti da questa Azione Rivoluzionaria dal 1976 in poi, e appunto questi documenti nascono dalla necessità di rivendicare le diverse azioni condotte contro uomini e organismi del potere, ma anche hanno una base teorica, diciamo. Allora, ormai mi sono messa su questa onda, quindi continuo su questo per dare un'idea sul tipo di azioni che Azione Rivoluzionaria compiva. Nel 1977 c'è stato una bomba notturna, quindi un attacco in un negozio di Luisa Spagnoli alla Spezia. E perché? Perché la sartoria di Luisa Spagnoli si avvale del lavoro sfruttato del proletariato detenuto, quindi l'hanno colpita per questo. Poi nel 1977 c'è stato questo attentato, è stato ferito il dottor Mammoli, che 5 anni prima, nel 1972, lasciò morire Franco Serantini a Pisa, e su questo poi ritorno perché ci sono dei documenti molto importanti e delle cose interessanti che hanno detto i compagni. Poi ci sono state azioni contro la Opel della multinazionale General Motors, contro gli uffici di collocamento e anche altre multinazionali come la Michelin per l'abolizione del lavoro salariato, e azioni contro le carceri modello in costruzione a Firenze e Livorno. Siamo sempre intorno alla fine degli anni 70. E poi un importante attacco contro l'IPCA Cirié, appunto Cirié è un paese vicino a Torino, e praticamente questa IPCA Cirié era definita la fabbrica del cancro, era una fabbrica chimica che produceva anilina. Sono morti per tumore alla vescica 168 lavoratori in questa fabbrica. C'è anche un libro che parla proprio della fabbrica del cancro, importante. E quindi c'è stato questo attentato contro questa industria e poi anche contro la stampa e l'Unità, ad esempio, perché appunto favoreggiavano, diciamo, la repressione dei movimenti rivoluzionari. Ma torniamo un attimo a Marilou e alla sua storia. Intanto vorrei leggervi il ricordo che ne fa Anna Beniamino. E Anna ha scritto questo bel ricordo di Marilou in occasione, diciamo, non subito dopo la sua morte, ma dopo un bel po' di tempo, in occasione di una giornata che era dedicata a questa compagna. Allora ci racconta Anna: ci sono persone che sono un porto sicuro a cui approdare. Marilou ne aveva tutte le caratteristiche, benché spinosa ed ironica nella discussione ed in certi cinici aneddoti delle miserie di movimento, sapeva essere accogliente sempre e comunque, senza paure e difficoltà. Nel suo raccontare e raccontarsi, fuori dalla retorica di certi suoi scritti che indugiano in un certo compiacimento agiografico nel dipingere ritratti di compagni ed episodi degli anni Ottanta, dava il meglio nella concretezza quotidiana, con la semplicità di chi ha conosciuto e vissuto le più svariate esperienze. Affioravano così l'onda rivoluzionaria ed i tempi di risacca e i compagni di una vita di militanza, termine adesso un po' retrò ma denso di significato sulle sue labbra. Dai vecchi partigiani anarchici carrarini, descritti in forma antiretorica nell'atto di disseppellire i loro infraccichiti tesori per aiutare i giovani di Azione Rivoluzionaria, ai compagnucci degli squat romani anni 90 da supportare nelle occupazioni, da Ors Fantazzini negli scarsi periodi di libertà tra una galera e l'altra, avido di vita e di avventure, a Gianfranco Faina, intellettuale in lotta ed in latitanza, Fernando Del Grosso, partigiano abruzzese di cui raccontava il non darsi pace fino a quando non raggiunse tutti i responsabili della morte dei suoi fratelli trucidati dai nazifascisti. Il tutto mescolato tra ricordi di un viaggio in Nicaragua per appoggiare la lotta e racconti sul bancarellaro del Bangladesh sotto casa da aiutare con i suoi problemi di irregolare nella metropoli, i manifesti di Casa Pound sotto i portici di Piazza Vittorio da strappare e se nessuno mi aiuta ci vado io, e ci andava davvero, e la frequentazione del coro delle cantrici della tradizione popolare e di lotta, le scarpette da flamenco mostrate con orgoglio e le medicine da cardiopatica dimenticate nel cassetto. La sua presenza a qualsiasi corteo, prendendosi gioco dello sguardo sgomento delle guardie a vedere questa signora con il cappotto color cammello e le scarpe a mezzo tacco, attorniata da giovani punk. Lo stesso sorriso con cui sussurrava 20 anni fa nelle strade di Genova, si va assieme prendendo sotto braccio i compagni che vedeva appesantiti da zaini troppo carichi. La stessa densità d'esperienza stratificata catturava subito l'attenzione di chi varcava per la prima volta la soglia della vecchia casa di Piazza Vittorio, anch'essa di vissuta e stropicciata nobiltà, fra il market Bangla e i negozietti cinesi, aperta giorno e notte per i compagni. Ai muri si alternavano i ritratti ad olio di una cigliata antenata ottocentesca. Marilou proveniva da una nobile e fascistissima famiglia ferrarese di cui era la figlia refrattaria, e i manifesti di lotta contro le carceri speciali, le foto dei compagni morti e le tovaglie di pizzo sciorinate per accogliere quelli vivi. I noccioli di pesco intagliati in forma d'anello, regalo di Horst quando era in galera. E l'agenda, con i numeri di telefono scritti a penna sul muro, dietro la pesante cornice che racchiudeva la suddetta nobile accigliata. Così, quando vengono alla prossima perquisizione, anche se si portano via l'agenda, li ho. Si capiva che non c'era alcuno stereotipo di movimento applicabile, valevano però sempre la solidarietà ed i legami indistruttibili, nonostante galere e naufragi ideali. Valeva l'orgoglio nel narrare le esperienze di lotta sue e dei suoi compagni, l'orgoglio di narrare una cosa ben fatta, un lavoro portato a termine fino in fondo. In questo senso, soprattutto, è stata illuminante e luminosa nello svelare in forma fiabesca quasi la durezza dei colpi ricevuti e la bellezza della resistenza, liberando chi veniva a contatto con lei della zavorra che ci portiamo addosso per viaggiare leggeri. si sarebbe fatta beffe pure dell'infame presenza dei questurini. Fino in occasione dell'ultimo saluto a lei, ultimo aneddoto di un'anarchica sorvegliata da viva e da morta, quasi che un funerale potesse essere una manifestazione sediziosa. O forse, in questi tempi cupi, sono considerati i morti più vivi dei vivi? Anna Beniamino dal carcere di Rebibbia. Continuiamo a parlare di Marilu Maschietto e di azione rivoluzionaria. Allora, dicevo che un'azione importante è stato questo attacco, questo ferimento del medico, di questo dottore carcerario che si chiama Alberto Mammoli, il quale praticamente ha lasciato morire Franco Serantini in stato di fermo. Allora, giusto per ricordare, è il 5 maggio 1972 a Pisa, sul Lungarno Gambacorti, 10 sbirri della pubblica sicurezza, agli ordini del capitano Albini, linciano Franco Serantini, nato a Cagliari il 16 luglio del 51. Viene arrestato dal commissario Pirono Monte e dal capitano comandante Albini e condotto al carcere Don Bosco. Allora, arriva quindi al, praticamente al, a mezzogiorno e mezzo del giorno dopo, del 6 maggio, Serantini, sorretto da due guardie, viene condotto in un ufficio del carcere per essere interrogato dal sostituto procuratore della Repubblica Giovanni Sellaroli. Dopo qualche ora, alle 4:30 del pomeriggio, il medico del carcere, dottor Alberto Mammoli, visita Serantini e annota: ecchimosi palpebra sinistra, numerose contusioni in parti escoriate al dorso, braccia ed arti inferiori, stato di shock. E prescrive Simpatol, Cortigen, borsa di ghiaccio in permanenza. Dopo 32 ore di agonia, tra sofferenze atroci, muore il compagno anarchico Franco Serantini. Il certificato del dottor Alberto Mammoli parla di emorragia cerebrale. Si cerca di far sparire il cadavere in fretta e furia. Tra l'altro, in tutta questa vicenda c'è anche un degna di nota, un impiegato che si rifiuta praticamente di fare veloci le carte per far sparire, insomma, questo, il cadavere di questo compagno. Allora dicono in un documento i compagni di Azione Rivoluzionaria: l'azione portata a termine dai compagni che hanno colpito Mammoli non è un episodio di stupida vendetta, come l'ha voluta siglare qualche giornalista, ma è traboccante di significato politico. Mammoli poteva salvare Franco dopo il pestaggio poliziesco e non lo ha fatto per un cinico calcolo politico, per una precisa scelta di classe, riconfermando anche in questo caso la condotta tenuta in tante altre occasioni di fronte a compagni detenuti. Nelle galere si è brindato quando è arrivata la notizia che era stato colpito Mammoli. Mammoli non è soltanto il medico che per negligenza ha lasciato agonizzare Franco per 32 ore, mentre goccia dopo goccia il sangue gli riempiva la scatola cranica fino a schiacciare il cervello. Mammoli è un simbolo, un'istituzione, un anello del sistema carcerario, e la sua condotta non si discosta da quella di altri medici delle carceri italiane che archiviano con poche parole la morte di un compagno. La figura e il comportamento di Mammoli riportano alla memoria tanti altri squalli di personaggi: il direttore del carcere di Pisa che cercò di far seppellire Franco in fretta e furia, il magistrato progressista Sellaroli che interrogò Franco sorretto da due sbirri e non si preoccupò di farlo ricoverare, il grande inquisitore Calamari che avvocò l'inchiesta per insabbiarla, il capitano di pubblica sicurezza Albini che arrestò Franco dopo averne ordinato il linciaggio, il giudice Angelo Nicastro che ha mandato assolto Mammoli. Non ci lasciamo però sviare da questi nomi. Non è su loro soltanto che deve fermarsi la nostra attenzione, perché di Mammoli, di Calamari, di sbirri graduati e di magistrati ce ne sono a centinaia in Italia, cinici e determinati quanto loro. Ed è questo cupo mosaico l'immagine bieca dello Stato. Intanto stiamo ascoltando questa band polacca, loro sono gli Aferra, cioè scusate, no, gli La Aferra, ed è un album uscito nel 1996. Sì, e siamo sempre in Zardins Magnetics, giovedì 8 giugno, giusto, in diretta radiofonica. Allora, stiamo parlando di Azione Rivoluzionaria e di Marilù Maschietto. Volevo adesso leggervi i ricordi di questa compagna, scritti da Alfredo e da Marco. Alfredo scriveva dal carcere di Ferrara, era il febbraio 2021. Ciao Marilù, con te un altro pezzo della mia anarchia muore. Grazie per essere stata sempre un porto sicuro per me e le persone che amavo. Grazie per avermi strappato all'apatia e alla disillusione quando avevo 18 anni e gli anarchici e le anarchiche mi sembravano una manica di parolai e rincoglioniti. E grazie soprattutto per avermi insegnato lo spirito critico e che gli anarchici e le anarchiche non hanno bisogno di leader e che il disprezzo e la superiorità verso l'ingenuo e lo sprovveduto non devono trovare spazio nel nostro cuore. Volevo dirtelo guardandoti negli occhi, ma non ho fatto in tempo. Perdonami. Ti devo molto, ti voglio bene, non ti dimenticherò. Alfredo dal carcere di Ferrara. E poi, invece ai funerali, di cui ci ha accennato prima Anna, appunto, funerali scortati dagli sbirri, questo ricordo, questa così discorso di Marco Bisesti. Scusate se prendo parola leggendo un testo e non abbraccio come meriterebbe una compagna che ha vissuto un'intera vita dando tutto ciò che poteva in termini di forze, mezzi e idee al movimento anarchico con la stessa naturalezza con cui discorreva nel salotto di casa. Marilù sapeva che stava per lasciarci. Le ultime parole che mi ha detto qualche giorno fa sono state: ricordatevi sempre di me. Ma nonostante questa consapevolezza, ha continuato a fare progetti per provare a dare fino all'ultimo istante il proprio contributo alla lotta per l'anarchia. Ricordare Marilù è difficile, anzi difficilissimo, in quanto la sua non è una semplice storia personale, ma è parte del patrimonio storico dei rivoluzionari. È fatta di legami, di intrecci, di storie, soprattutto collettive, ma anche di scontri. Ci ha lasciato testimonianza dell'esperienza di Azione Rivoluzionaria, anche tramite dei libri. Ha contribuito alla nascita del Comitato contro Carcere e Repressione Gianfranco Faina, stando al fianco dei prigionieri nell'intero corso della sua vita. La storia del movimento anarchico io l'ho conosciuta dalle sue labbra, prima ancora che dai libri. Qualcuno potrebbe dire che è storia di parte. Sì, lo è. Questo perché è la storia raccontata da chi ha sempre appoggiato l'anarchismo d'azione, senza esserne semplice spettatrice, tra il piacere di un colpo andato a segno e il dolore di vedere i propri compagni morire armi in pugno o in galera, o peggio ancora prendere le distanze dalle pratiche rivoluzionarie. Così, grazie ai suoi racconti, ho tentato di vivere con la stessa passione, ho imparato a difendere i medesimi principi, così come a serbare lo stesso rancore. Ricordare Marilù, come lei ci ha chiesto, e allora difendere l'ipotesi rivoluzionaria, metterla in pratica, ben sapendo che questa è costellata di scelte da fare. Una certa partigianeria non solo è inevitabile, ma doverosa, perché se, come si usa dire in simili occasioni, passaggio di testimone ci deve essere, bisogna allora che si faccia propria la storia dei rivoluzionari con tutto quello che comporta. Bisogna avere il coraggio di scegliere, di saper essere di parte, dalla parte degli sfruttati, ma a maggior ragione dalla parte di chi, tra gli sfruttati, ha abbandonato ogni indugio per abbracciare la lotta per la libertà, senza compromessi e soprattutto senza rinnegare nulla. A te, Marilù, ai compagni morti ma che hanno vissuto pienamente, a quelli che ancora oggi pagano il prezzo delle proprie scelte. Voi non meritate le nostre di lacrime, ma quelle di paura degli oppressori. Marco. Ecco, e cerco di arrivare, diciamo, a un dunque, cioè di concludere questo breve, forse un po' caotico, ricordo di Marilù Maschietto. Tra l'altro è un'occasione questa, il fatto di aver letto il ricordo di Anna e quello di Alfredo, specificamente è anche un'occasione per dare voce a loro e per ricordare, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che il 19 giugno ci sarà questa udienza per il ricalcolo delle pene, insomma è un modo anche per così essere vicini e vicine ad Anna e Alfredo. Allora, per finire vi leggo una breve narrazione di Marilù Maschietto su Fernando Del Grosso. Diceva Fernando Del Grosso: noi abbiamo bisogno di credere a nostro proprio rischio, ad ogni ipotesi abbastanza viva da tentare la nostra volontà. Fernando Del Grosso era nato a Chieti, grande paese di magistrati e giudici. I suoi genitori davano per scontato che anche lui non avrebbe deluso le aspettative, ma era anarchico, mai avrebbe lavorato con la legge e soprattutto odiava ciò che gli permetteva di giudicare gli altri. La famiglia era antifascista, la madre appena udiva lo schiamazzo del gerarca con i suoi uomini che passavano sotto casa, cominciava a sbattere un grande tappeto rosso e loro capivano, o se capivano. Sul finire della guerra gli americani erano già sbarcati e marciavano verso Roma. Una tragica mattina un manipolo di camicie nere sequestrarono alcuni ragazzi del paese. Due erano i fratelli del Grosso. Furono fucilati nella piazza. Azione crudele ed inutile. Il più piccolo dei fratelli fu attaccato ad una jeep e trascinato sui viottoli di campagna fino alla morte. Fernando, da vecchio, ancora non riusciva a parlarne, né a raccontare di come aveva raccolti i miseri resti e ancora ricordava le lunghe strisce rosse sulle punte delle pietre e sull'erba. La madre, che aveva visto tutto, morì poco dopo e Fernando, ormai solo, entrò nelle brigate partigiane Garibaldi, che si divisero ed una prese il nome di Brigata del Grosso, in ricordo dei due fratelli uccisi. Il compagno li aveva ben visti in faccia ed alcuni purtroppo li conosceva. Combattendo con i partigiani riuscì ad ucciderli tutti, ma solo il capo, quello che aveva diretto tutto, era sparito. Ma un giorno gli fu detto dove era, alla risiera di San Saba, l'unico campo di concentramento nazista in Italia. Anche lì continuava a torturare ed uccidere. Durò parecchi giorni l'appostamento, ma una sera, sull'imbrunire, se lo trovò davanti. Era come al solito in divisa, lo guardò ed urlò: «Del Grosso, cosa fai qui?» Ma non finì la frase. Lo lasciò così, steso in terra, con gli occhi stravolti dal terrore, e indubbiamente, un attimo prima di morire, aveva capito che per lui era la fine. Da allora, da quel corpo steso sotto il lampione, Fernando cominciò a vivere, ma il suo cuore si era ammalato, lo vedevamo sempre affannato, con la trinitrina in tasca e i cerotti vasodilatatori in petto. Nonostante questo, era sempre presente dove c'era bisogno di lui, informato su tutte le situazioni dei compagni ed informatissimo sulle carceri. I compagni lo adoravano. Un giorno fu ricoverato. La situazione si era aggravata maggiormente e ci lasciò così, sempre pensando a noi. Fernando Del Grosso era un compagno anarchico e faceva parte del gruppo di Azione Rivoluzionaria. Appunto, questo era una narrazione scritta da Marilu Maschietto, che si trova in questo libricino che ho scovato nella mia trasferta napoletana e che comunque distribuiremo anche noi qua a Udine. Quindi se venite alle iniziative lo troverete. Bene, allora intanto io saluto per stasera. Yeah. Volevo anche dire che stiamo ascoltando adesso in sottofondo, ma anche prima abbiamo ascoltato in parte durante gli interventi, questa band storica del punk hardcore italiano. Loro sono i Kina, band che si è formata agli inizi degli anni 80, e questo è loro, sono i brani estrapolati dall'album Irreale Realtà, che è uscito nel 1985. Denken Sie an den Zukunft, der vor kurzem geräumt worden ist. Denken Sie an den Virus in Milano, ein ähnliches Zentrum, das geräumt worden ist. Und denken Sie, dass wir noch viele, viele solche Zentren brauchen, wo wir unsere Kultur, wo wir unser Leben feiern können. Allora, un saluto e un ben trovati in ascolto a tutte e a tutti. Se state ascoltando vuol dire che siete sintonizzati su Radio Onde Furlane che ci ospita. Questo è Zardins Magnetics, programma autogestito, come già stato detto, è realizzato da noi. Siamo l'assemblea permanente contro il carcere e repressione già da qualche anno, insomma, che ci ascoltate, alcuni diversi decenni che li ascoltate comunque. Un aggiornamento sui compagni di cui si parlava qualche minuto fa. Avrete sentito, visto, saputo che Alfredo Cospito è stato di nuovo deportato a Bancali, nell'isola, appunto, colonia penale di questo bel paese, e, in quanto è stato valutato che le sue condizioni non richiedono il, si può neanche dire ricovero, perché quella zona grigia lì dove lui si trovava non si sa neanche bene cos'è, era il reparto che può dirlo, infermierizzato, ospedalizzato di un carcere di massima, cioè di un carcere illegale, tra l'altro, per la maggior parte dei paesi civili e incivili cosiddetti del mondo, ma in Italia tutto ciò è autorizzato, eccetera, il 41 bis. Quindi niente, la scorsa puntata, come è stato detto prima di me, la scorsa puntata di Zardins Magnetics era già stato annunciato questo appuntamento del 19 giugno per l'udienza, cui probabilmente Alfredo Cospito e Anna Beniamino credo che assisteranno in videoconferenza. Cosa c'è altro c'è da dire? L'indirizzo è reperibile, insomma, nei soliti siti per provare a scrivergli. Tuttavia, sapete, come si sa, insomma, il 41 bis è molto difficoltoso che arrivi, gli venga consegnata la posta. Tuttavia si può sempre fare pressioni anche con questa, diciamo, questo mezzo. Passiamo alla situazione di un altro compagno che è Greg. E qualcuno forse dei locali che stanno ascoltando si ricorderanno che anni fa, insomma 4-5 anni fa, si fece un presidio fuori dal, sì, una presenza così solidale fuori mese di agosto del 2000, mi sembra 17 o 18, un par 18, Potrebbe essere anche 17, non ho controllato. Comunque, fuori dal carcere di Gorizia, per questo compagno che era stato fermato ad un posto di blocco e aveva delle, così, delle pendenze, e lo hanno condotto in carcere a Gorizia. Poi mi sembra che è stato portato dove, insomma, dove aveva la residenza. E sempre molto presente nelle lotte torinesi, e abbiamo insomma letto gli aggiornamenti che riguardano la sua situazione, che appunto è stato fermato già da qualche settimana, la notizia di qualche settimana fa, è stato fermato nei pressi di Limoges. Presumo sia a sud della Francia, per un controllo stradale, lo hanno identificato. Ah no, una parentesi, era tra i compagni molto molto così attivi. Se vi ricordate, durante la in pieno lockdown, nel mi sembra 2020, era stata organizzata una carovana pazzesca di solidarietà con l'operazione repressiva a Bialystok, e loro si erano messi con i furgoni, con i caravan, eccetera, hanno girato, cioè erano partiti soprattutto, diciamo, nella penisola, ecco, non nel nord. Comunque anche questa incredibile avventura aveva messo in piedi insieme ad altri e altre. Dicevo, è stato arrestato, portato lì nel carcere di Limoges, c'è stata l'udienza di, diciamo, la prima udienza, e lui riferisce che un momento che ho perso la pagina, ho trovato, e no, dicevamo che gli è stato c'era stata una richiesta del mandato di arresto, no, europeo, dal ovviamente dall'Italia, e niente, sì, riferiscono qui che è intervenuto nell'udienza Greg, ha ricostruito il contesto dei fatti che gli sono contestati, sì, che gli sono stati imputati, e che appunto è un contesto di, dicevamo prima, lotte sociali, sgomberi, sì, interventi sul discorso antirazzista, diciamo, sui centri, sui lager, per migranti, insomma, negli ultimi anni. E dice, ha accennato al livello repressivo in Italia, sproporzionato sia in fase preventiva sia giudiziaria, al clima fascista, fuori dall'Italia si può dire, al clima fascista che si respira da Salvini alla Meloni, da Salvini in quegli anni alla Meloni adesso, quindi concluso che si oppone all'estradizione. Più o meno l'avvocata ha ripetuto queste cose qua, la corte però non ha accettato la richiesta di pene alternative, insomma, di dargli i domiciliari o quant'altro, e quindi niente, bisogna aspettare ancora la prossima udienza, che sarà, mi sembra, il 25 giugno o giù di lì, ma forse più in là. Scusate la disorganizzazione, non l'ho buttata là un po' così al volo questa intervento, comunque ritorneremo con più precisione i prossimi giovedì. We'll be right back. intanto stiamo ascoltando in sottofondo, e anche abbiamo ascoltato durante questo ultimo intervento, questa band inglese che si era formata proprio così quasi a metà anni 80, poco prima, e loro sono i Civilized Society, e questo è il loro primo album Scrap Metal, uscito nel 1986. Poi la band si sciolse e a quanto pare in questi ultimi questo diciamo ultimo decennio, ma nemmeno così tanto, pare che in formazione super rimaneggiata si sono riformati questi Civilized Society. Allora, sempre in diretta su Zardins Magnetics di questo giovedì 8 giugno, il prossimo blocco, così, questa, diciamo, le prossime cose che diremo riguardano il discorso complottista. Allora, noi siamo, chi vi parla è proprio apprendista complottista, nel senso che non siamo ancora a livelli seri, però siamo sulla strada per un complottismo abbastanza convinto, nel senso che tutti questi anni, insomma gli ultimi specialmente, ci hanno insegnato, che volano, però ci hanno insegnato niente, quello che sapevamo già, cioè che tutto quello che arriva da, soprattutto dai media, ma ormai possiamo dire anche dai social media, dalle piattaforme varie, dall'informazione più o meno verificata, è... Su questo noi non abbiamo niente da, insomma, da imparare, il fatto che dobbiamo diffidare, no? Ce lo siamo sempre detti, non si capisce perché adesso questa cosa qua dovrebbe vacillare, anzi non sono altro che conferme di tutto quello che in questi decenni ci siamo ripetuti. Poi quando esce un libro in Francia che si chiama Manifesto Complottista, più o meno dei soliti, cioè il solito giro, solito niente, non è che li conosciamo, ma il giro è quello, diciamo, dell'autonomia francese, quelli del Comitato Invisibile, ecco, degli anni, primi anni 2000 e seguenti, seguaci di Mario Tronti, eccetera eccetera. Esce un volume in Francia, non è tradotto, non risulta, a me non mi risulta tradotto ancora qui in Italia, e immediatamente, cioè era febbraio 22, in pieno Green Pass, in pieno obbligo vaccinale, immediatamente interviene un giornale come Il Domani, che l'ha messo su proprio, l'ha messo in piedi subito dopo che Draghi è andato al potere, per stroncarlo. Quindi questo Questa questione qua del complottismo va un attimo, secondo noi, un attimo affrontata anche in correlazione con tutta una serie di, chiamarle, fastidiose, stucchevoli, ma continue, sempre più, diciamo, numerose, incomprensioni dovute invece a un'ideologia che è quella woke, che dilaga negli Stati Uniti d'America, e quella che, diciamo, appunto prevede un identitarismo, cioè adesso questa è la mia opinione, non è che ci siamo confrontati qua, ed è che rispecchia, ecco, le posizioni di nulla tranne che di quelle di chi vi parla, ma che è sta diventando appunto un'ideologia, quella di diffidare di chi appunto non ha le carte in regola, perfette, insomma, presentare un percorso politicamente ineccepibile in tutte le sue varie sfumature, appunto, dicevo, dell'identitarismo, delle varie correnti neofemministe, chiamiamole così, postcolonialiste, eccetera, eccetera. Vi ripeto, un'ideologia che è ormai mainstream, non è che riguarda, però anche nell'ambito militante comincia, insomma, a essere incombente questa questione qua del woke. L'ho fatta lunga questa così premessa. Io vorrei appunto leggere con voi alcuni pezzi di questo, invece, questa recensione, che è stata scritta da Bernard Asp, che io non conosco, si occupa di estetica, è uno, diciamo, un accademico, un universitario francese, scrive su un blog che si chiama Terrestre in francese, e ha scritto questa recensione al Manifesto Complottista, che si intitola Legge Umana e Legge Divina, a proposito di un manifesto recente. Allora, lui, questo Asp, parte per così illustrare i contenuti del libro che io, parentesi, non ho letto, che è questo Manifesto Complottista. Parte dalla questione dell'anima, che era stata sollevata Michel Foucault, va bene questo, ma ha un'importanza relativa, insomma. Adesso Foucault, la parte secondo me più importante dell'articolo riguarda il fatto che viene così fatta una disamina, viene insomma aperto un po' la questione nel senso che per cercare di dare una concretezza alla comunità che si è formata in protesta, insomma, per contrastare le misure autoritarie di confinamento, eccetera, eccetera, di obbligo vaccinale, eccetera, eccetera, per dare una consistenza a questa comunità, è necessario, questo noi, lui lo chiama, è necessario fondare o trovare, diciamo, un po' meno forte, una nozione, insomma, un'idea di anima che non si lasci fabbricare dalla legge globale, cioè dobbiamo partire alla ricerca di una visione, diciamo, complessiva, che esca un po' da questa legge che è quella neoliberista, in sostanza. Adesso la dico molto, molto grezza. E per fare questo, però, lui dice, non è che non è che possiamo buttare via la legge divina, ma va ridefinita questa divinità come una divinità che rimane immanente al mondo, cioè non è più una divinità esterna alla realtà, insomma, alla nozione di mondo, all'esperienza concreta umana, ma è immanente, cioè vuol dire interna, no? Dentro, è dentro il mondo. Io direi che ho parlato un poco e mettiamo intanto un primo, così, un po' più di vita, un po' più di vita musicale, ecco. Allora, stavamo parlando di legge divina e legge umana a proposito di un manifesto recente di Bernard Asp. E ci sono varie questioni in questo lungo articolo che metteremo poi sul blog, insomma, metteremo il link, e cioè perché si parte comunque dal discorso che il pensiero neoliberista toglie gli esseri dal loro ambiente relazionale attraverso vari operatori tecnologici, epistemologici, psicologici, e quindi il loro obiettivo è quello di produrre una condotta umana tale da rendere stabile e irrovesciabile e obbediente il soggetto umano. È questo qua, no? Il discorso un po'. La giusta linea di demarcazione non deve separare un noi, virgolette, identitario dalle alterità, donne, migranti, eccetera, eccetera, ma il noi politico dalla classe tecnocapitalista. E questo è un discorso che appunto riguarda il fatto che in questi movimenti di questi ultimi anni, che vanno scemando adesso per il momento, poi probabilmente alla prossima emergenza si ricoaguleranno, sono presenti anche forze così destroidi o di estrema destra, e quelle sono proprio componenti identitarie. Allora lì il discorso è appunto di non fissarsi a nostra volta sul noi identitario delle varie alterità, che possono appunto essere o le donne o i migranti o le questioni di altro genere, adesso insomma la faccio così schematicamente, ma un noi, fra virgolette, politico di classe tecnocapitalista, cioè di sfruttati dal tecnocapitalismo. E l'abbiamo visto, cioè è affiorato questo discorso qua del neoliberismo, ad esempio durante la vaccinazione c'è stato questo ricatto: o accetti la vaccinazione o l'ospedale per colpa tua crolla. E questo qua, no? Il gaslight che dicevo, il gaslighting che si diceva nel nostro spot che abbiamo mandato in giro. E cioè sono queste costruzioni retoriche che ti portano a mettere in dubbio le credenze nel reale, diciamo, non hai più certezza del reale, di quello che tu stai così neanche credendo, hai, in cui sei immerso, ecco, hai una un dubbio così radicale che ti trovi completamente spaesato. E questo è appunto quello che è stato prodotto con queste grandi dissociazioni, dovute alle imposizioni così autoritarie. Quindi qui il discorso dell'ospedale, per cui l'ospedale crolla se tu non ti vaccini per colpa tua, che non può sostenere tutte le persone ammalate, qui c'è una truffa, nel senso che cioè non è che l'ospedale non è che l'ospedale di per sé, come è adesso concepito dal neoliberismo, lui deve stare in piedi ed è il suo stato ottimale quando è sull'orlo della rottura, cioè è concepita la roba per stare sull'orlo della rottura. Questo qua è puro neoliberismo, no? Tendere a razionalizzare, virgolette, tutte le, così, le risorse, le uscite, le entrate, eccetera, mettere a valore ogni tipo di cioè mettere in appalto, esternalizzare, eccetera, non avere più nessun tipo di risorsa, tagliare tutte quelle che sono le potenzialità, insomma, le professionalità varie, insomma, metterle, esternalizzarle, ho già detto. Quindi quella lì è proprio il grado, proprio il paradigma del neoliberismo. E questo qua è stato ribaltato, il discorso, su ciascuno di noi, dicendo: è colpa tua se l'ospedale crolla, mentre invece l'ospedale normalmente crolla, cioè è un fatto normale, è già programmato. Invece la constatazione che il virus circola per via aerea avrebbe dovuto, secondo la logica, portare ad arrestare e generare deterioramento delle condizioni di vita, cosa che i governi sono riusciti a evitare. Cioè loro hanno messo in piedi tutto questo artificio retorico di di confusione, di paura, di terrore, eccetera, e intanto sono andati avanti con peggiorando le condizioni, il deterioramento appunto ambientale, peggiorando le vite nei vari territori, e le contaminazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Le conclusioni di questa recensione: gli autori del manifesto hanno ragione a insistere sulle trappole che possono bloccare i movimenti femministi o di decolonizzazione, trappole identitarie, oggetti di gestione perfetti e che fanno proliferare il superio di gruppo nei circoli militanti. Il disastro del mondo militante radicale è di essere diventato incapace di mettere in discussione, cioè di agire su quelle ipotesi politiche supplementari, appunto queste qua, diciamo, di una comunità, si diceva prima, immanente, cioè in relazione con la divinità ma immanente al mondo, di essere riusciti appunto a mettere in discussione, cioè di agire su quelle ipotesi politiche, oppure solo in maniera velleitaria. Si rende omogenea la visione pragmatica del mondo, non si accorge che è questo che permette al suo nemico di perpetuare la sua vittoria. Il problema non è quello di passare dalle lotte di classe a quelle per il territorio, no? Voi sapete che negli ultimi anni, per fare un esempio dell'Italia eclatante, la Valle di Susa, insomma il movimento contro la linea ad alta velocità, il problema non è quello di passare dalle lotte di classe a quelle per il territorio, il problema è quello di rendere selvaggia la lotta di classe stessa. Udine, sulla sentenza del 1 giugno. Giovedì 1 giugno si è chiusa, con sentenza di primo grado, una pagina della battuta repressiva che sta colpendo i compagni e le compagne dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. Quasi una battuta di caccia da parte della Digos, che ha mostrato la sua faccia più propria e tetra di polizia politica, avvallata dalla procura e dai tribunali della moderna Inquisizione. Una caccia alle streghe che ci ha portato in tribunale con svariate incriminazioni per istigazione a delinquere e diffamazione aggravata verso figure istituzionali delle carceri di Udine e Tolmezzo. Da dove vengono queste incriminazioni? Dall'aver pubblicamente dato solidarietà alle compagne e ai compagni inquisiti e incarcerati nell'ambito dell'operazione repressiva Renata e dall'aver fatto dichiarazioni di condivisione della giustezza dell'azione diretta contro gli apparati militari e le banche che li finanziano, le sedi di partiti politici razzisti e le istituzioni totali. Dall'aver parlato in piazza e nella trasmissione radiofonica Zardins Magnetics delle storie di rivoluzionarie e rivoluzionari del recente passato, rivendicandole come parte importante della nostra storia di oppresse e di oppressi che cercano di non piegarsi al dominio. Dall'aver fatto da cassa di risonanza alle testimonianze dei prigionieri delle carceri di Udine e Tolmezzo e dall'aver fatto i nomi e i cognomi delle figure istituzionali responsabili della malasanità, della psichiatrizzazione dei detenuti, della mala gestione della pandemia da Covid-19. La sentenza, che prevede la condanna ad un anno di reclusione per istigazione a delinquere per un compagno e la condanna per diffamazione aggravata per una compagna con una pena pecuniaria di 3.000 euro, dimostra la volontà di Digos, procura e tribunale di stroncare il più possibile le lotte contro il carcere e le istituzioni totali, cercando di fare terra bruciata attorno a chi le pratica e di criminalizzare anche il solo fatto di pensare alla possibilità dell'azione diretta contro lo Stato. Una caccia alle streghe? Sì, perché qui il vero crimine che andava individuato, accertato e represso esemplarmente è l'aver parlato franco, denunciato pubblicamente, davanti a chiunque, in piazza, categoricamente. Come ci ha fatto notare un compagno, Catagorein significa letteralmente sottoporre un discorso alla piazza. Aver non solo solidarizzato, ma catalizzato e promosso il moto di protesta tra il 2019 e il 2020 al carcere di Udine, da anni abbandonato al degrado e dimenticato da tutti. Sì, vogliamo la distruzione del carcere, la distruzione dell'estremismo inumano e repressivo che esso concretizza isolando e cancellando l'identità di chi vi è rinchiuso. Parliamo franco, in una società che invece detta le regole e colpisce chi sgarra, una società che non si limita a censurare, ma che con la propria lingua impone la realtà inumana del capitale, una lingua che è imposta a chiunque dall'apparato scolastico e formativo come uno strumento per occultare il proprio sentire più autentico, il sapere intuitivo, ad esempio, che accanirsi su persone inermi non è normale. Questa lingua falsa che si parla nei tribunali e nelle articolazioni dello Stato democratico non si limita a censurare le parole autentiche, aguzzino, intralazzatrice, ma indirizza chiunque a parlare, pensare e sentire come essa vuole, al posto di come noi vorremmo parlare, pensare e sentire, e lo fa tanto quanto più ci si abbandona inconsciamente ad essa. Ancora una volta questo posto insegna e mi fa sviluppare capacità emotive e pratiche che mai avrei pensato di poter avere. Per il resto passo le giornate a leggere le news, tradurre cose, continuo la ricerca su come la cristianità influenza le donne, devo dire molto interessante, ed ascolto musica inascoltabile tipo Eros, gli Articolo 31 e i mitici 883, ma ho scoperto meglio anche Venditti, per voi amiche romane, che la sua musica mi mette una malinconia indescrivibile. Se avete proposte, ditemele, la musica mi ricorda sempre momenti vissuti. Penso alla mia famiglia, penso tanto anche a voi, a come potete stare. Purtroppo non posso tenermi in contatto con tutte, provo a rispondere a tutte, soprattutto in questo momento. Thank you. ancora due parole su questa vicenda, che ci insegna che il dominio non tollera che qualcuna o qualcuno esca dall'automatismo psicologico che porta alla normale rimozione di un passato di lotta rivoluzionaria in questo paese, maledetto paese, nel quale i movimenti antagonisti non riescono a liberarsi di un vasto retroterra di dissociazione e resa. In tempi di elogio del disimpegno, di smobilitazione, di rassegnazione per ogni ipotesi di rovesciamento dell'esistente, abbiamo testimoniato nel nostro piccolo una realtà ben diversa di pratiche e di azione diretta contro il dominio e il capitale, una realtà che non ha mai accettato di piegarsi ai loro compromessi, a nessun recupero democratico e non accetta più di essere seppellita nell'oblio. La conferma è giunta con il movimento minoritario, ma anche qui in Friuli Venezia Giulia consistente, che si è formato per la campagna di solidarietà con lo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro ergastolo e 41 bis. Una campagna nella quale la critica al sistema carcerario è stata struttura portante, che si è accompagnata nelle sue componenti migliori a una critica più ampia e complessiva, comprendente la contrapposizione all'emergenzialismo permanente e alla minaccia di guerra nucleare scatenata dalla NATO, forme per mantenere il terrore dei governi, l'obbedienza dei governati e la sopravvivenza dell'Occidente capitalista. Una lotta che continueremo al fianco di tutti i prigionieri che non si piegano e di tutte le ribelli, di ogni sfruttato e di ogni proletaria che incontreremo sulla nostra strada, con l'azione diretta, rifiutando ogni delega, senza esitazioni, parlando franco. Intanto sabato 10 giugno, dalle 14, saremo nuovamente presenti fuori dal carcere di Udine per un presidio solidale con i detenuti. Assemblea permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e di Trieste. Sì, questo era il nostro comunicato appunto in merito alla sentenza del primo giugno. Come avrete notato, tra una parte e l'altra del comunicato c'è stato un inserimento, sì, magari poteva sembrare tipo una roba di disturbo del Lucigos, in realtà è stato un errore di e abbiamo messo insomma un'altra registrazione, vabbè dai, può succedere. E dico ancora due parole sul presidio di sabato 10 giugno, dopodomani, appunto ci sarà questo presidio solidale con i detenuti, tra l'altro e non solo con i detenuti, solidale anche con noi, diciamo, per tenersi vicini. E tra l'altro abbiamo ricominciato ad andare ai colloqui e quindi ad avere relazioni anche con le persone care dei detenuti del carcere di Udine, con i familiari, insomma, le persone vicine. E niente da dire, una cosa significativa che rispetto a tutto ciò che abbiamo denunciato in questi anni, la situazione è abbastanza statica, purtroppo. E c'è i problemi dell'area sanitaria sono sempre gli stessi, direi che c'è anche un accanimento sul lato psichiatrico, insomma, che avanza. Probabilmente, come si diceva prima, in tempi di sfrenato neoliberismo, le cose, la pace sociale si ottiene anche in questo modo qua, cioè distruggendo o cercando di distruggere il cervello e i sentimenti delle persone sulle quali si esercita il totale potere, come è nel caso delle carceri. E sì, insomma, quindi anche per questo è significativo il discorso del presidio di sabato, è significativo anche per ribadire e cercare ancora, insomma, un contatto tra il cosiddetto fuori e il dentro. E bene, intanto lascio la parola alla regia per i contatti. Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Abbiamo leggermente sforato, i nostri contatti sono la mail su posta elettronica liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121 la casella postale. Bene, ciao a tutti, e inoltre, se dimenticavo, potete ascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle delle scorse volte, su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, oltre a risentire questa trasmissione domani in replica su Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.